YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Buonasera e bentornati a Radio Tube, un nuovo appuntamento con la trasmissione di Radio 24 che vi fa ascoltare l'imperdibile, l'imperdibilissimo e anche il perdibile della settimana tra TV, web TV, social TV, tutto quello che fa scatenare il mondo del web, che neanche in questa 51esima puntata chiameremo il popolo della rete. Io mi sento un po' sola questa settimana perché Daniele Bellasio è andato in vacanza, ma Ligio al dovere è collegato al telefono con noi. Buonasera Daniele. Buonasera. Come tanto dicono già che sono il tuo Parenzo. Ma veramente io sono una donna senza cuore, ti ho costretto in vacanza comunque ad essere presente. Eh sì, e soprattutto anche a dire gli hashtag, a fare i compitini. Sì. L'hashtag RadioTube. Bravo. Gli account @MartaCagnola @DiBellasio. Sì. E per il resto non è che abbia proprio studiato tanto. Cosa hai fatto in questi giorni? Bah, dunque, ieri sera ho visto una partita, anzi un allenamento di pallone elastico, detto anche palla pugno, che devi sapere è uno sport nazionale qui in Piemonte, perché io sono nelle Langhe, che tra l'altro sono diventate famosissimo poco. Ultimamente, sono sulla bocca di tutti anche le Langhe. Esatto, il 50° sito italiano patrimonio dell'umanità dichiarato dall'UNESCO. Allora, ieri sera ho assistito a questa partita di pallapugno o pallone elastico. Non chiedermi le regole perché non le ho mai capite, vedo le partite da una ventina d'anni ma non le ho ancora mai capite, però molto divertente, si colpisce la palla con il pugno, per l'appunto, no? Ricoperto da una serie di cose per proteggerlo, ed è sport nazionale qui in Piemonte. E potremmo anche buttarci come nazionale invece del pallone, che non è andato tanto bene, ma ne parleremo dopo. Esatto. Ne parleremo dopo, ma è vero che ti sei guardato un sacco di cartoni animati? Dunque, allora, siccome qui io ero l'altro giorno al bar qui del paese a Grappolo d'Oro. Che meraviglia! Il Grappolo d'Oro, del resto siamo qua. E un mio amico diceva, stupendo, e diceva a suo figlio, io sono qui con mio figlio in vacanza, diceva, vuoi sentire Peppa Pig? E lui non era tanto convinto. Poi gli ha detto, vuoi sentire Peppa Pig in piemontese? Ah! No. Mi è sembrato interessante, te l'ho girato senza neanche sentirlo praticamente. Allora, io credo che se il bambino del tuo amico è piccolo non è questo che ho preso io, perché questo non è proprio non adatto. È piccolissimo, c'è qualche parolina. Vabbè, allora ascoltiamo questa Peppa Pig in piemontese, l'account di YouTube dal quale l'abbiamo presa è quella di Alfredo Massa. Eccola qua, Peppa Pig in piemontese. Mi son Peppa Pig, che al sì un re col folle di me fra il George, che la sì a re con la porca di me more, e questi un re col fagnone di me cuore. Sì, io ho tutto una cosa, mai visto il posto del paese. Devi mangiare sterne a cò, bandacciù, mandi a caghevo. È l'unica cosa che ho capito, è l'ultima espressione, e il resto non l'ho capito. Sai come si fa a capire se una persona conosce il piemontese? Io non lo capisco nulla. No, deve riuscire a dire dupu vrum bagnonteleli. Credo di aver capito la traduzione, ma non te lo posso proprio dire. Ma tu, Marta, in che lingua riusciresti a capirlo, Peppa? Tu che ami tanti bambini. Sì, i bambini, i maialini, i dialetti. Allora, io ho cercato un po', su tuo suggerimento, i vari dialetti e ce n'è uno che sono riuscita a capire. Adesso non so se tu capisci qual è, se riesci a individuarlo. Eccola qui, vabbè, dai, ti do già un suggerimento. L'account è quello di Olvava e si intitola Pota Pig. Sono la Pota Pig. Adesso arriva che il suoni del me fratel. Poi dopo la ria la me mother. E che il suoni del me padre. Pota Pig, bella storia, ci porti giù al fantabosco allora che ce l'avevi promesso. Te bella, a che colpio è mia, ne? A che fol sulle te porte mia chi polle. Ma me l'avevi promesso però, ne? Fa mia compagna della tua madre, ne? Bravo, Digel. La mamma aveva detto che se facevo i compiti mi portavate giù oggi. La tua madre la ricorda mai ne gota, insomma. In che il compleanno del nonno han porta sui pasticcini in vaso a mangiato e ti insieme fa festa con la nonna. Con la nonna? Allora, non c'era il brianzolo, non ho trovato una Peppa Pig in brianzolo, però col bergamasco, insomma, sono quasi in zona. Quindi questa la capisco, Pota Pig. Ma scusa, ma non lo trovi stupendo? Il dialetto su YouTube è la rivincita dell'arcaico sul contemporaneo. Io lo trovo bellissimo. Beh, adesso mi metto qui a fare questa riflessione mentre... No, ma tu che sei una linguista, dovresti apprezzarlo. No, no, ma tantissimo, mi piace moltissimo. Poi, vabbè, è anche lo sforzo creativo di chi si mette lì e ridoppia, io lo trovo irresistibile. Mi piace veramente tanto che si possa usare creativamente il materiale più banale e più diffuso del mondo, che è appunto ovviamente Peppa Pig. Mi è piaciuta anche quella di Leonardo Visani, questa me l'hai mandata tu, ma non so se l'hai ascoltata, perché questa è in siciliano, Peppa a Pocca. Io sono Peppa a Pocca, questo è mio fratellino Pippo Pocco, chi sta da Pocchi mamma? E chi sta da Pocchi mamma? Siamo una famiglia di pocci. Facciamo il bucato. Oh, uova! Ma un esterno! Inghi, che bella maglietta, uova! Ma qui è Beghessio? Ma chi è? Non conosci Beghessio? Ma che spagnolo? Oh, non ti riperi così mie figlie, perché magari mi affronto. Ah, ma spiegamelo tu, qui è Beghessio, uova! Ma meglio io che adoro la Catania, un numero uno! Beh, dico Beghessio, stiamo già andando in zona calcio, perché tra poco parleremo di calcio. Mi è piaciuta tantissimo questa Peppa Pocca in siciliano. Sono uno più bello dell'altro. Sì, sì, una Peppa, una razza. Radio Tube. Rieccoci insieme dopo le informazioni per chi sta viaggiando in questo sabato sera o quasi sera con un RadioTube in cui io sono da sola, Marta Cagnola da sola, perché Daniele Bellasio ha deciso di andare qualche giorno in vacanza, ma io non gli do tregua, quindi è collegato con noi dal Piemonte dove si sta rilassando, ma insomma almeno un'oretta per stare al telefono con gli ascoltatori ci vuole, Daniele. Sì, sì, sì, sono qui, ti ho chiesto il permesso prima di andare in vacanza comunque. Sì, è vero, perché io sono un po' cattiva, quindi vabbè, gli ho dato il permesso. Ma però sappi che io, siccome non ho visto queste belle partite, mi sono rilassato proprio. Bello, i mondiali, di grande soddisfazione. Anzi, vorrei farti entrare un po' così nell'atmosfera, con questa bella canzone che ci rende felici e ci ricorda dei momenti proprio di grande gioia. Allora, lo sapete che io voglio bene Amy Schilla, però devo dire che ormai, alla luce degli eventi, alla luce degli avvenimenti di Maracanã, purtroppo non ne posso più sentir proprio parlare. Daniele, come l'hai vissuta tu la debacle? Ma insomma, io devo dire che l'ho presa abbastanza senza sorpresa, perché era una nazionale fin dall'inizio presuntuosa, noiosa e un po' viziata. E devo dire, so che magari tu non sei d'accordo, ma era tutto partito male, la canzone è un remake, a me personalmente non è neanche piaciuta tantissimo. Ah, intendevi quella di Negramaro. Sì. La Rai un disastro, cioè non lo so, era tutto che non funzionava, non so, mi sembrava che la sceneggiatura fosse tutta scritta male, per cui il finale è finito. Ecco, l'unica cosa, adesso basta con la questione dei morsi, perché non ne posso più, cioè personalmente, visto dalla vacanza, continuamente queste metafore sui morsi sono... Vabbè, allora io torno a casa perché ho fatto tutto un blocco di audio di parodie del morso. Vabbè, dai, sopportali ancora per 10 minuti. No, ma vabbè, immagino dobbiamo raccontare quello che è successo. Si è parlato solo di morsi. Ma vorrei chiamare in causa un esperto e appassionato di calcio e di TV, che è Domenico Naso. Buonasera, Domenico. Ciao, buonasera a voi. Allora, ti presento con il tuo bio su Twitter. Intanto l'account è @ Domenico Naso, giornalista professionista, scrivo per vivere, ma soprattutto viceversa, scrivo di TV per @ Fatto Quotidiano, e tra l'altro tu hai tenuto per il blog del Fatto Quotidiano proprio un blog dal titolo irresistibile su questi mondiali. Eh sì, Cotechigno, dal famoso film con Alvaro Vitali, mitico film degli anni Ottanta. C'era il centro, cos'era il centravanti di sfondamento. Perché c'era tutta la metafora bassa, che va bene. Beh, per grandi classici. Domenico, allora, Daniele intanto ha detto, ha detto tutto partito male. Daniele, già, veramente. Tutto partito male. La tua reazione intanto alla sconfitta, anzi alla disfatta, com'è stata? Io soffro tantissimo quando si perde, quindi è stata dura, anche se non mi aspettavo molto, cioè pure io la penso come il buon Bellasio, quindi è andata come mi aspettavo, forse non così presto, ma va bene. Ecco, io mi aspettavo che potesse andare ancora un pochino più avanti, un po' più di un minimo di gioia. Il primo turno. Ecco. Domenico, Daniele ha citato la televisione, tu hai seguito molto da vicino gli aspetti televisivi di questi mondiali, e anche questi sono stati particolarmente discussi in rete, ormai lo diciamo da 51 puntate, social TV, quest'anno la social TV è stato il primo mondiale social con la TV mondiale social. Com'è andata secondo te, Domenico? Allora, sul fronte social è andata bene, cioè nel senso che i numeri sono enormi, perché ormai si parla quasi solo di quello, su Twitter specialmente. Sul fronte TV è andata malissimo, perché spiace anche dirlo, ma la Rai ha dato una pessima prova di sé, sarà anche per i tagli, sarà per tutto il resto, ma è stata una prova imbarazzante per una TV pubblica, quindi spiace anche dirlo, dover sempre scriverlo, ma siamo ai limiti del dilettantismo, ecco, questo è il dramma. E poi quando vedi che dall'altro lato c'è il colosso Sky che c'ha i soldi, quindi che investe, manda una flotta di 30-40 inviati, e tutto è molto più duro ancora per la Rai, che esce con le ossa rotte. Molti hanno però parlato di una Sky che addirittura fatto troppo, secondo te? È un po' nello stile Sky, perché sanno che sono gli unici che hanno i soldi in questa fase, quindi li spendono tutti, e li spendono anche per strafare. C'era quello studio con quella mega vista sulla spiaggia di Rio, un po' troppo, però quelli di Sky sono un po' così, un po' sboroni, e ci piacciono anche per questo a volte, dai. Allora io voglio cominciare a farvi sentire un po' di audio. Ovviamente il tormentone è stato, lo dicevamo, quello dei morsi. Ve lo ricordate quel video virale, sì, lo devo dire, virale di YouTube di qualche anno fa? C'era il bimbo Charlie che mordeva il dito al fratello e il fratello si lamentava e diceva: Charlie mi ha morsicato il dito. Ovviamente l'hanno rifatto con Suarez, invece di Charlie Bite Me, sentiamo com'è l'audio di questo video rifatto in tema Suarez. Ouch! Suarez! That really hurts! E ovviamente il bambino si lamenta perché Suarez lo morsica. Ironia in rete in qualsiasi modo. Daniele, tu ti sei divertito un po' a guardare tutte le cose in rete di tutto c'è stato su Suarez, Daniele? Sì, e di tutto. Effettivamente c'era una foto bellissima, se non di un giornale inglese che dava la notizia della squalifica con un sorriso a 36 denti di Suarez, dove praticamente c'era il sottotesto già nella immagine. Ma devo dire che è stato un po' simbolico come evento. Adesso, al di là della scorrettezza sportiva, che sicuramente meritava una squalifica magari non così forte come è stata quella combinata a Suarez, era un po' simbolico del fatto che l'Uruguay aveva una voglia, una cattiveria maggiore rispetto alla nostra, che si è trasformata sia da una parte in un eccesso di agonismo per Suarez e dall'altra in una continua astuzia e ricerca della vittoria, mentre noi sempre simbolicamente eravamo lì pronti a mostrare la spalla togliendo la maglietta per far vedere che chissà quale crimine o quale ingiustizia avevamo subito, eravamo già sulla difensiva prima ancora di giocare. Cioè avevamo giù la maglietta anche senza il morso. Un'altra parodia, si chiamano 442s, cioè 442 OONS, il loro account su Twitter è appunto @442s. È un canale che fa delle parodie che riguardano il calcio. Questa riprende la vecchia Beat It, e questa è la versione che riguarda Suarez e Chiellini. invece di Beat It, Just Bite It. Domenico, tu l'hai seguito un po' le ironie in rete? Era impossibile dribblarle? Vabbè, certo. Per noi che siamo sempre lì su Twitter, sì, era un po' dura. Come sempre ci si scatena con diciamo, alcune cose molto belle che fanno molto ridere, però pure su questo ormai c'è la corsa a chi fa più ridere sui social e spesso quello che viene fuori è che non fa più ridere più nessuno, insomma. Ma alcune cose, soprattutto delle foto belle, tipo quella di Suarez con il collare elisabettiano per i cani, quella da subito è stata postata perché è la terza volta che il nostro Suarez morde, quindi era già stata fatta, era già pronta quella, ecco perché sì, esatto, quella era già pronta. Tra l'altro poi ci sono state un sacco di aziende che l'hanno utilizzato anche così come pubblicità, vabbè, insomma, cioè, la più nota azienda di pasta l'ha fatto in Italia, ma anche aziende produttrici di dentifrici in Inghilterra, addirittura c'è un'azienda con, penso fosse dentifricio filo interdentale, c'era scritto se per caso vi è rimasto un pezzettino di italiano tra i denti. Oh. Vabbè, lo humor inglese. Dai, ci sta un altro video, questo arriva dalla Colombia, dal canale colombiano Loco Humor, soprattutto per chi capisce lo spagnolo, ma un po' si intende. Porque Luis Suarez mordió a Giorgio Chiellini, le spiegazioni secondo Loco Humor, canale colombiano, di Luis Suarez. No, aquí la comida que dan no es muy buena, entonces dije, déjame morder el italiano que debe saber interesante. ¿Pero te gusta morder a la gente? Sí. ¿Y mordiste a Chiellini? Lo mordí. La verdad es que el entrenador no nos deja comer nada antes del juego y yo paso hambre y los muerdo, ¿ves? Los pobres, los muerdo. Cavani. Allora, praticamente l'allenatore non gli dava da mangiare, quindi lui aveva fame, e poi dice: io avevo fame e mi sembrava che l'italiano avesse un sapore, potesse avere un sapore interessante. Insomma, a me ha fatto molto ridere questo Loco Humor canale colombiano, perché è ovvio una cosa del genere, l'ironia in rete diventa planetaria istantaneamente. Vi faccio entrambi una domanda al nostro ospite e anche al mio co-conduttore a distanza. Le guardate ancora le partite dei mondiali? Perché io vi confesso che ho questo momento di delusione, per cui non lo so. Domenico, tu continuerai a seguirlo? No, io no. Cioè, dico la verità, io che le vedo sempre tutte, che le guardo sempre tutte, dopo la sconfitta ancora non ce l'ho fatta. No, io per certi versi le guardo un pochino più rilassato anche, perché insomma si vede il calcio, ci sono squadre fantastiche che giocano fin dal primo minuto con voglia di vincere, di giocare, non so, il Belgio, ma anche gli Stati Uniti mi hanno divertito. Insomma, secondo me è un bel mondiale, le europee hanno un po' sofferto e soprattutto sono arrivate un po' presuntuose a questo appuntamento, e quindi però no, ci si può ancora divertire guardandolo, perché poi appunto il mondiale non siamo solo noi, perché se fossimo solo noi sarebbe già finito. Lo so, io invece sono così sentimentale, sto twittando anche molto meno, vabbè, ve lo confesso. È una crisi. Sì, è proprio per me è una delusione, sì, è proprio un dolore dentro, non ci posso far niente. Ho visto al supermercato le bandiere dell'Italia in un angolo lì, quelle quello mi ha proprio messo svuotati. Sì, proprio malinconia. C'era quel reparto lì con le bandiere in vendita. Sembra quasi finita l'estate. Esatto, sembra l'estate sta finendo, come cantavano i Reghera. Allora, è finito invece il tempo a nostra disposizione per questo blocco, perché tra poco abbiamo una breve pausa, poi ci ritroviamo ancora. Io intanto però ringrazio Domenico Naso per essere stato con noi, @ Domenico Grazie Naso per voi. Chi volesse seguirlo su Twitter. Domenico, vabbè, noi continuiamo a seguire Cotechino, se tu hai voglia di riprendere. Sì, scriverò ancora, come no. Certo. Di riprendere. No, fino alla fine, fino al 13 luglio. Grazie Domenico, a presto. Grazie a voi, ciao. RadioTube. Rieccoci insieme per la seconda metà di questo RadioTube. Come sempre vi raccontiamo l'imperdibile, l'imperdibilissimo della settimana tra TV, web TV, social TV. Insomma, raccontiamo anche un po' quello che è successo in Italia e nel mondo in questo periodo. Cosa è successo? Abbiamo parlato dei mondiali, era impossibile non parlarne, anche se secondo me io proprio non ho più voglia di parlarne. Poi è successo che Daniele Bellasio è in vacanza. Ciao Daniele, sei ancora... Lo dici continuamente, ma come hai fatto? No, ma, in colpa. Ma no, ma perché poi gli ascoltatori ti sentono al telefono e si chiedono perché mi hai tradito, e mi hai tradito solo perché ti ho consentito di andare qualche giorno in vacanza, ma solo per quello. Esatto, sì, tutto. Ma qualche giorno? Cioè, c'è poi il podcast comunque. Sì, ma poi tu torni. Da lunedì c'è il podcast. E tu da lunedì torni, però non è che sì, sei in giro. Sì, anche peraltro. Ah, ecco. Allora... La politica, la scorsa settimana ero in giro io, quindi mi hai dovuto aggiornare. Esatto. Questa settimana, comunque, anche se io ero alla scrivania e tu fuori, sei sicuramente più aggiornato di me. Beh, intanto voglio ricollegarmi ai mondiali, perché poi di mondiali hanno parlato tutti. Vabbè, il numero uno è stato subito il povero Gasparri, che ha fatto quella gaffa la settimana scorsa. E i politici ancora, molti, non hanno capito che Twitter è un po' una cosa planetaria, e quindi se twitti una roba poi va in giro per il mondo, e quindi lui ha fatto quella cosa, l'abbiamo citata, se l'era presa un po' con gli inglesi, sto cercando di renderli addolciati un po'. Aveva preso il nome di una importante testata come uno pseudonimo di un account fake, insomma. Cose divertenti. Sì, ecco, diciamo che poi bannava tutti, minacciava tutti. Vabbè, insomma, cose divertenti che fanno capire che i politici ancora un po' devono imparare a utilizzare i social network. Tanti politici si sono espressi sulla bocciatura sonora, sulla scuffia presa ai mondiali. La Russa. Anche perché si sono dimessi tutti, presidente, allenatore, quindi insomma è diventato quindi, un caso anche un po' politico. Diciamo. Eh sì, perché è rottamazione. Poi c'è invece qualcuno che dice che è già una sconfitta di Renzi, qualcuno l'ha detto anche in Ma queste sono follie, però. Senti, allora, ma invece sentiamo cosa ha detto la Russa. La Russa ha detto: io sto con Balotelli, ma sentiamo perché la Russa sta con Balotelli. Io capisco che le colpe di Balotelli ci siano, soprattutto quella di avere creduto ai giornalisti che gli dicevano che lui era il salvatore della patria. Lui non è decisivo, però... Balotelli ha detto noi africani, ha sì, adesso questa sbaglia anche lui, sbaglia molto, sbagliano tutti, ma considerare Balotelli il capro espiatorio non è la scelta giusta, è troppo facile. A quel punto io sto con Balotelli, soprattutto se smette di far cadere la cosa che mi piace più di lui, e cioè che è un bresciano italiano indipendentemente dal colore della pelle. Io sto con Balotelli perché è bresciano italiano, e mi sembra così abbiamo sistemato tutto. Anche qui la storia, la vicenda di Balotelli si è svolta tantissimo sui social network, cioè le accuse di non essere un italiano vero, lui allora si è difeso anche lì in maniera forse un po' maldestra, ma sappiamo che Mario a volte non è sempre centratissimo nelle sue reazioni. Insomma, sembra che i mondiali di Mario Balotelli siano stati i più social possibili e immaginabili, nel bene e nel male, Daniele. Sì, lui è stato molto sfortunato, perché ovviamente aveva tutte le attese di un paese su di lui, e lui queste attese le ha deluse, perché ovviamente era l'attaccante, il nostro fuoriclasse, la nostra punta. Per me questa volta la storia è molto facile, doveva fare un sacco di gol, non è andata così, doveva giocare benissimo, non è andata così, e quindi si è beccato un po' di critiche, dovrebbe diventare più decisivo. In questo la Russa ha ragione, non è stato decisivo. Ma insomma, stiamo mischiando calcio e politica. Invece adesso ti voglio riportare sulla politica, perché allora questa settimana si sono incontrati PD, 5 Stelle, stile 5 Stelle abbiamo visto tutto, bisogna, ormai si fa così adesso. PD. Hai presente quando tu stai per sposarti? Hai presente, no? Che tu sei fidanzato. Guarda, posso risponderti serenamente? No, non ho presente, ma... Allora, più o meno, no? Come quando tu sei fidanzato da tanto tempo, sei convintissimo, stai per sposarti, stai per, come dire, per finire un tuo processo. E fin lì ci sono. fin lì lo so com'è. Ecco, è arrivato al dunque e compare una vecchia fiamma sulla via della tua decisione. Urca. E tu hai una piccola tentazione. Sì. Il Movimento 5 Stelle ha colto tatticamente in modo molto astuto questo momento in cui le riforme, il processo di riforme avviato dall'intesa tra Berlusconi e Matteo Renzi, stava arrivando al dunque, e il Movimento 5 Stelle si è inserito volendo un po' tornare a fare la fiamma che rinvigorisce un'antica tentazione, cioè quella di fare un altro tipo di accordo, un altro tipo di processo di riforma, un altro tipo di dialogo politico. E quindi c'è stato questo streaming, e Matteo Renzi si è un po' vendicato, battuta dopo battuta, dell'altro streaming che c'era stato quando Beppe Grillo in pratica non lo aveva lasciato parlare durante le consultazioni. Cioè, chi di streaming ferisce, di streaming perisce, ecco come ad esempio ha parlato Renzi a Di Maio, ironizzando sul sistema elettorale proposto dai 5 Stelle. Per noi prioritaria è la governabilità, il tema delle preferenze viene dopo. Quindi il possiamo tema della discutere delle preferenze. Noi stiamo discutendo delle preferenze, della governabilità, del il sistema Toninelli, che io definisco scherzando il complicatellum, detto anche Grande Fratellum, dall'escluso della aspetti casa. Aspetti di vedere i risultati delle simulazioni dell'Italicum per capire quanto è complicato. È il complicatellum, il Grande Fratellum. Fratellum è buona, perché è un modo intelligente per prendere in giro la preferenza negativa. Sai che nella proposta di legge del Movimento 5 Stelle c'è non soltanto il fatto che tu puoi votare per qualcuno, ma puoi votare quello no. Cioè come l'esclusione dalla casa, quindi Grande Fratello. È un default in pratica, sì, cioè... Era molto in forma come battute, no? Sì, no, guarda, ce n'è un'altra e però secondo te è troppo, di la verità. Sai che, allora, soprattutto questa che è arrivata dopo, che adesso ti faccio sentire, che parla un po' delle preferenze, del numero delle preferenze, Renzi aveva accanto Ale Lamoretti, secondo me è stato un filo troppo. Quante preferenze hai preso tu, Ale? 231.000 quasi. 231.000. Credo che abbia preso più preferenze Lamoretti di tutti i candidati 5 Stelle nel nord-est. Non è esa. Un po' di più? Vabbè, però insomma, quanto ha preso il primo candidato di 5 Stelle nel nord-est? Non abbiamo i segreti di superare. Quindi 230-30, non abbiamo problemi, non lo diciamo con arroganza, lo diciamo con serenità. Cioè, io non so quanti voti avete preso voi alle vostre primarie per essere eletti alle parlamentari. No, ma lo dico, non lo voglio fare polemica. Tu hai preso lei, non so se diciamo del tuo del lei, perché dopo i pizzini abbiamo cambiato, ci diamo del lei. Come vuole lei, Presidente. Come vuole lei. Lei ha preso 182 voti alle primarie. Noi con 182 non riusciamo a metterlo in un consiglio comunale. Non lo diciamo con arroganza, lo diciamo con serenità, non c'è come essere un po' arroganti dicendo non lo diciamo con arroganza. Secondo me è stato un po' fin troppo qua. Poi vabbè, però è un'opinione. L'aggettivo sereno o il sostantivo serenità bisogna stare... L'ha già usato, una volta, sì, e non è proprio... Attenti. Sì, diciamo che... Comunque la presenza di Alessandra Moretti, dell'onorevole Moretti lì, era perfetta. Ale, quante ne hai presi tu? A proposito, comunicazione prevede anche, come dicevamo prima, che uno sappia usare i social network. Abbiamo parlato della gaffe di Gasparri coi mondiali. Il problema è che però i politici devono ricordarsi che sui social network le cose restano. E quindi, come si dice dalle mie parti, anche se scancelli, però poi le cose rimangono, cioè bisogna stare attenti. Verba volant, tweet manent. Beh, bella questa, bella, mi piace. No, io in realtà invece non sono di questa opinione, ma te lo dico dopo. Non me lo dici? Allora, voglio portarti a commentare questo video che tu mi hai segnalato, un video postato da Franco Bechis, che io devo un po'... sgridare, perché il microfono, questa è tecnica, è un po' saturo, deve stare un po' attento coi volumi, glielo devo dire, perché adesso come lo sentirete, sì, anche adesso diamo delle lezioni di registrazione anche a lui. Per cosa ha scoperto Franco Bechis andando ad analizzare il passato social di Pina Picierno, pre 80 euro? Ecco il tweet che ha cancellato dal suo profilo la neo eurodeputata del PD Pina Picerno e una renziana convinta. Ma un anno fa non era così. Pina Picerno a Pierluigi Bersani: prende il volo nei sondaggi, Renzi deve recuperare tra 9 e 15 punti, scritto un anno fa, ma cancellato 6 mesi fa. Ancora Pigna-Picerno, qualcuna dica a Renzi che l'ONU ha appena sancito con un voto storico che deve studiare lo sfotte Renzi, scritto un anno fa, cancellato sei mesi fa quando è diventata renziana. Allora, anche Valeria in regia mi ha guardato e mi ha detto che bisogna spiegare un po' che il microfono non andava tanto bene, lo diremo a Franco Bechis. Allora, perché non sei d'accordo, Daniele? No, perché io lo dico proprio chiaramente, se si può cambiare idea si possono cancellare i tweet, non capisco perché no. Ah, invece no, secondo me se cambi idea li devi tenere e devi affrontare il fatto che hai cambiato idea, cioè spiegare magari che hai cambiato idea... Però, però rispetto a tutti quelli che hanno cambiato idea in passato, noi abbiamo una bella sfiga, perché sulla rete resta tutto è recuperabile. In passato era facile dire una cosa, scrivere una cosa e poi dopo chissà, no? Eh sì, anche con gli ex fidanzati un tempo spariva tutto, adesso rimane tutto in rete, bisogna stare molto attenti. Cosa fai? Cancelli tutte le vecchie foto? Vengono sempre fuori. Io sono favorevole a cancellare tutto, lo ridico. ecco, rimanendo nella metafora. Ma vabbè, ma è ovvio, dai. Beh, lei però, dai, è passata per ora la storia come quella degli 80 euro. Sai che qualcuno ha fatto una parodia sugli 80 euro di aumento? Questa invece, secondo me, come spirito l'ho trovata un po' più grillina come testo. Non lo so, la mia impressione è stata questa. Non so tu cosa hai letto tra le righe di questa cosa resterà di questi euro 80, che invece insomma non è più anni 80 ma euro 80, che ha postato Andrea Tosatto. È così la gente ha scelto il PD, che condona i soldi delle slot machine, che non rimborsa i rimborsi, che vuole la TAV, che ha regalato miliardi a Banca Italia, al ritiro delle truppe. Beh, insomma, il testo non è molto così generoso col PD. Cosa resterà di questi euro 80? Te li danno, poi te li portano via. Cosa resterà? E il PD ti incanta con la verità dentro una bugia. Eccolo qua, questo è il testo di satira politica di Andrea Tosatto. Cosa resterà di questi euro 80? Daniele, che ne dici? Però però bravo. Intanto questi euro 80 sono diventati un totem, sono diventati la cifra, la firma, l'inizio, i titoli iniziali, quasi il titolo dell'inizio del governo. Quindi insomma resta che dal punto di vista della comunicazione diciamo che hanno bucato questi euro 80, più di così. Siamo ancora qui la comunicazione. Daniele, ci risentiamo tra poco perché ci sono le informazioni per il traffico e poi andiamo, tiriamo fuori la sfera di cristallo e guardiamo un po' nel futuro della prossima stagione televisiva. YouTube. Beh, io a questo punto della trasmissione dico sempre come vola, come passa il tempo quando ci si diverte, ma io questa puntata mi sono divertita molto meno perché sono in studio da sola e Daniele non c'è. Daniele? Sì, quando... atturo il mio microfono, no? No, va bene, non è come quello di Bechis che sgrideremo, hai sentito? Ma è della carta stampata. Lo so, ma infatti noi gli diamo un suggerimento da radiofonici, che così si sente meglio quando lo mandiamo in onda anche noi. Sì. Daniele, quando torni? E torno domenica sera dopo le Baroliadi. Cosa sono le Baroliadi? Faccio un corso accelerato di cultura piemontese. Non lo so, però spero che si beva. Cioè tu bevi e poi ti metti in viaggio, no? Tutti pensano che sono le Olimpiadi di chi beve di più. No, sono i giochi dei 10 comuni, perché guarda che il Barolo può essere prodotto soltanto in 10 comuni qua in Piemonte. Tra cui ovviamente Barolo, che è un po' la capitale. Sono come dei giochi senza frontiere che si giocano in una piazza di un paese. Il gioco più importante è spingere la botte per 1 chilometro, 2 chilometri. Ma tu partecipi attivamente e spingi la botte? No, io guardo. E quindi niente, domenica sera dopo le Baroliadi arrivo. Fin domani sera, meno male, dai, va bene, perché sennò poi manchi troppo e qua dopo arrivo tranquillo. Bravo. Adesso è il blocco serio, no? Molto serio. Beh, adesso andiamo a vedere la prossima stagione, perché come ormai gli ascoltatori lo sanno, perché in questo periodo poi ne parliamo spesso a Radio 24, ci sono le presentazioni dei palinsesti. Questa settimana è stato... Chi conduce Ballarò? È la domanda. Certo, perché è stato il turno della RAI. Beh, allora andiamo per ordine però, perché questa settimana intanto... ha presentato i suoi palinsesti la Rai, la prossima settimana toccherà Mediaset, quindi noi cominciamo a parlare di quello che vedremo in Rai, anche perché Social TV per tutti questi mesi, su cosa faremo Social TV nei prossimi mesi. Ma io vorrei partire riattaccandomi all'inizio della nostra trasmissione, perché abbiamo parlato male della Rai e dei mondiali, perché in rete hanno detto tutti però Sky ha fatto dei mondiali molto più belli di quelli della Rai, perché... E allora io cosa ho fatto? Sono andata a chiederlo, così con un po' di faccia tosta, sono andata a chiederlo al direttore generale della Rai, è Luigi Gubitosi, che mi ha risposto con molta signorilità, appunto, e mi ha spiegato: beh, però non si può fare un confronto tra Rai e Sky sui mondiali perché siamo troppo diversi. Beh, siamo diversi. Detto questo, credo che dai mondiali usciamo bene. No. Anzi, non vorrei dirlo troppo presto, perché poi c'è tutto il periodo successivo e chiaramente l'uscita d'Italia altererà in qualche modo questi mondiali, ma ad oggi rispetto al Sudafrica il rapporto con Sky è rimasto invariato, anzi si è leggermente spostato a nostro favore. Detto questo, Sky fa un magnifico lavoro, noi facciamo il nostro e siamo contenti, ma Sky è una televisione a pagamento, la Rai è la televisione del servizio pubblico, abbiamo una missione diversa. Beh, allora, io ho avuto un po' di faccia tosta, sono andata a disturbare il direttore generale della Rai, che però insomma mi ha dato una risposta secondo me molto corretta, dice: siamo diversi, effettivamente abbiamo delle realtà diverse, e comunque loro si sono detti molto soddisfatti, quindi mi sono comportata bene. Daniele, vado in giro, sì, non ti faccio fare brutta figura, eh? No, figurati, ecco. Beh, peraltro ha detto una verità, il problema è se ha convinto il pubblico cui la Rai intende rivolgersi. Evidentemente, insomma, poi appunto con l'Italia uscita, se fanno tutti come me che sono triste, non guardo più i mondiali, insomma le cose possono cambiare, perché, sì, infatti era tutto il film che era partito male. Però tu hai fatto la domanda che si sono posti tutti: Ballarò? Floris? Sì, perché qua è come il calciomercato, il contratto non c'è. Allora, devi sapere, ti racconto un po' di retroscena. Siamo arrivati negli studi di Via Mecenate in Rai, ci hanno dato subito la cartella stampa, che poi era un numero speciale del Radio Corriere, e subito prima che iniziasse la conferenza stampa abbiamo cominciato a sfogliare compulsivamente, perché dovevamo subito vedere se c'era il nome di Floris, ovviamente, twittare subito, no? E niente, c'era Ballarò, ma non c'era il nome del conduttore. Quindi c'era la frase: ovviamente torna Ballarò. Sì, ma... Però... Non eri soddisfatta stavolta. No. Allora, la domanda inevitabile, insieme a un altro paio di domande che ho fatto anche per te, al direttore di Rai 3, Andrea Vianello, la domanda inevitabile: ma Floris, questo contratto? Ecco qua. Risposta obbligata, trattativa in corso, quindi in questo momento meno parole si dicono e meglio è. Chiaramente Floris per noi è una risorsa storica di Rai 3, è nato dentro la Rai, quindi adesso la parola deve andare alla trattativa, speriamo che si chiuda nella maniera felice. Io non posso chiederti della grande scommessa di Masterpiece, perché insomma c'era grande attesa l'anno scorso. Qual è il tuo bilancio e cosa succederà? Beh, il bilancio è un bilancio positivo, è chiaro che era un linguaggio molto complesso, no? Adesso se palinsesto non lo trovate, effettivamente è chiaro che, come dire, proprio anche la sperimentazione di linguaggio ci ha spinto a riflettere, a capire, ma come ho detto prima in conferenza stampa, mai dire mai. È stato un successo anche social enorme, Hotel 6 Stelle, forse non vi aspettavate tanto successo e tanto affetto. Torna? Torna, perché come dici tu è stata una grande esplosione di affetto. Beh, insomma, il tuo programma preferito, Masterpiece, per ora è lì a riposo. Perché i capolavori non si ripetono. Per ora Masterpiece è lì a riposo, ma chi vivrà vedrà, insomma, non è detta l'ultima parola. Invece io, che ho twittato come una pazza su Hotel 6 Stelle, Hotel 6 Stelle torna con grande vuoi sottolineare che hai vinto tu? Ma no, ma dai, sono due programmi molto diversi. Lo so. Sono due programmi molto diversi, non si possono paragonare neanche, insomma, come produzione, ecco, dobbiamo dirlo. Allora, andiamo sempre a curiosare cosa succederà, perché ci sono... L'ammiraglia, me la trascuri. Prima ti dico qualcosa di Rai 2, perché ti do uno scoop che noi abbiamo già fatto. noi già lo sapevamo e già l'abbiamo detto a RadioTube, perché è confermato, arrivano The Pills con zio Gianni. Noi avevamo fatto una puntata speciale dedicata alle web series, avevamo avuto i The Pills ce l'avevano già detto, adesso arriva la conferma di questa notizia che appunto noi avevamo avuto in anteprima. In 25 episodi da 7 minuti, zio Gianni, allora 50 anni, niente lavoro, niente più moglie, niente più casa, una stanza, tre coinquilini di 25 anni più giovani, e secondo me è molto carino. Gianni Coletti, 50 anni, i suoi nuovi compagni di vita, tre allegri spiantati di 20 anni nella Roma dei giorni nostri. E questo sarà... Sì, sono molto, molto contenta. Secondo me ci sono i The Pills, c'è anche lo zampino di Sidney Sibilia, di Smetto quando voglio. Quindi cosa vogliamo di più? Cosa vogliamo di più, Daniele? Sono tutti i miei preferiti. Sono tutti i miei preferiti. L'ammiraglia. Allora, l'ammiraglia, 10 comandamenti per Benigni, un nuovo talent per la Carrà, poi torna Gigi Proietti, insomma, delle solide certezze. Qualcosa di nuovo però c'è anche per quanto riguarda Rai 1, arriva Will Walsh. Sai chi è Will Walsh? È uno delle star del web, Guglielmo Scilla. Lui già era riuscito a passare dal web alla TV, farà una serie in 6 serate, Baciato dal sole. Per ora ti posso solo dire: il sogno del successo nel mondo della televisione. A me è sembrata un palinsesto comunque piuttosto tradizionalista, anche se con questi tocchi un po' di modernità. E insomma, abbiamo chiesto a un appassionato di Twitter, un amico quanto è outspoken su Twitter. Mamma mia, hai visto, in questo periodo sta twittando tantissimo e si sta anche esponendo tantissimo. Chiocciola Gianca Leone, cioè Giancarlo Leone, il direttore di Rai 1. Noi abbiamo una grande responsabilità, che è quella di rivolgerci a un pubblico largo, che va dai bambini agli anziani. Nel caso della Carrà, forte, forte, forte, che vogliamo realizzare a partire da gennaio, sarà nuovo non tanto solo nella formula, ma nel fatto che da lì noi vogliamo scoprire i nuovi personaggi della Rai del domani. Nonostante tu sia molto social, le altre reti cominciano già con molta vivacità a utilizzare i mezzi social. Rai 1 appunto ha un pubblico magari più adulto, non siete ancora tanto attrezzati a questo aspetto? Sicuramente bisogna lavorarci molto di più su questo, però abbiamo adesso preso una persona che farà solo questo nella rete, Manuela Palelli, è una nostra fantastica dirigente, che si occuperà soltanto di costruire tra i programmi e il mondo dei social una forte connessione. Spero che anche il pubblico più giovane se ne accorga. Ecco, quindi la notizia è che anche Rai 1 comincerà, come sta facendo molto anche Rai 2 e anche Rai 3, a diventare più social. Daniele, queste sono le novità per quanto riguarda la Rai. La prossima settimana diamo un po' di spazio a Mediaset, perché verranno presentati palinsesti Mediaset. Ma io resto qui, aspetto qui, a questo punto. No, tu proprio no. Allora, ti facciamo la solita gag che io voglio restare lontano e tu mi dici che però devo tornare. No, ma che invece è vero. Quindi domani ti concedo di essere ancora con noi al telefono, perché devi andare a spingere le botti nelle barodiadi. Daniele, ti saluto e ci ritroviamo domani. Ciao, ciao. Anche noi ci ritroviamo domani alle 15.